Il tempo cura tutte le ferite, e questo io lo so per esperienza, ma quelle più profonde lasciano una cicatrice che non sparisce mai e con il tempo si risveglia. Un po' paura di non averti dato quel calore fraterno che ti meritavi, ed ora la mia mente scoppia di domande a cui non potrò mai rispondere. E come posso continuare senza averti potuto spiegare, senza che io ti abbia potuto dire quanto ti voglio bene? Ed ogni gesto, ogni idea, ogni pensiero io lo faccio nel nome tuo, perché tu mi dai la forza, perché tu senza saperlo mi hai fatto capire quanto è bella la vita, e tutti gli attimi fuggenti ed ogni passo in avanti sono frammenti che riflettono di te. Perché brucia il fuoco che mi sento dentro, ma al tempo stesso fa sorridere, perché lo so che per me ci sarai sempre, perché sarai sempre presente, un sottofondo che continuerà a suonare incessante. Pagherei con quanto di più caro per rivedere anche per un istante quel ragazzino che giocava su quel prato verde e si impegnava come fosse lo stadio più importante. Ma la nostra vita spesso è ingrata, perché se ripagasse giustamente saresti qui da noi, saresti qui per noi, saresti qui con noi, osannato dalla gente. Ed ogni gesto, ogni idea, ogni pensiero io lo faccio nel nome tuo, perché tu mi dai la forza, perché tu senza saperlo mi hai fatto capire quanto è bella la vita, e tutti gli attimi fuggenti ed ogni passo in avanti sono frammenti che riflettono di te. Perché brucia il fuoco che mi sento dentro, ma al tempo stesso fa sorridere, perché lo so che per me ci sarai sempre, perché sarai sempre presente, un sottofondo che continuerà a suonare incessante. E questa lettera la dedico a te, a questi anni insieme, al ricordo indelebile che ha lasciato. Grazie, Fa. Tutto il tempo che ho buttato, io capisco solo ora che cos'è. Perché tu con la tua forza, perché avevi una gran voglia di continuare a vivere, ed hai lottato per ciò che diamo per scontato, per vedere un po' davanti a te questo mondo e tutte le sue meraviglie, per stare ancora qui. Perché? Perché la notte è arrivata troppo presto, perché non era ancora tempo comprendere il perché di tutto questo. Io purtroppo non riesco, perché lo so che per me ci sarai sempre, perché sarai sempre presente, un sottofondo che continuerà a suonare incessante.